Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. Ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? In questo momento noi non abbiamo un governo di centrosinistra, abbiamo un governo di centrodestra. Abbiamo al Ministero dell'Interno Angelino Alfano, abbiamo in Senato l'appoggio di Verdini. Quindi questo è quello che noi abbiamo in questo momento. Io penso tutto il male possibile. Spiegherò a proposito di questi 12.000 euro che mi vengono imputati, mi piacerebbe che la stessa trasparenza venisse utilizzata ad esempio dal capo del governo, che ha speso in un anno come presidente della provincia di Firenze 600.000 euro in cene di rappresentanza. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no. Se io non conosco il programma di Riccardo Giachetti o di Virginia Roberto, io non lo conosco personalmente, quindi a volte sbaglio. Ma non credi che un suo grande, grave errore sia stato quello di isolarsi politicamente rispetto al Partito Democratico? Ma guardi, se io avessi seguito tutti i consigli del Partito Democratico, forse mi avrebbero messo in cella di isolamento. Una ragazza mora ma carina. Ma ragazzi, è stupendo, è tornato Ignazio Marino, ma vi rendete conto? È riapparso Ignazio Marino, che ha dato alle stampe il libro di memorie della sua tragica esperienza, alcuni dicono tragicomica, non i romani chiaramente, esperienza sindaco di Roma, e beh, è tornato Marino, ma non... ma non so come dire... Ma non è sempre un bello spettacolo la politica italiana? Cioè, voi non pagate neanche il biglietto. Sì, vabbè, magari questa storia che magari pagate poi con le tasse. Come siete noiosi! Come siete noiosi! Poi dite, magari veniamo amministrati male e dobbiamo pagare tante tasse. Sempre a guardare il portafogli, eh? Non iniziate con queste noie mattutine. Ammirate il bello, lo spettacolo del teatrino. Cioè, non avete neanche bisogno del bonus cultura per andare a teatro. Quello di Renzi, cioè, se avete lo spettacolo, accendete una TV, accendete una radio, meglio, Radio 24, accendete qui, 24 mattino, e guardate uno spettacolo. L'unico spettacolo che dovrete andare a teatro, ve lo dico già, è il mio con Leonardo Manera, eh? Annunciazione! Ve lo dico subito, il 10 aprile, che è una domenica, alle 20.45, quando siete un po' annoiati, ci avete ancora da digerire, alle 20.45 di domenica 10 aprile, dovete venire tutti al Teatro Manzoni di Milano, cioè mica un teatrino, il Manzoni di Milano, in via Manzoni, perché rifacciamo Platone con Leonardo Manera. Dovete andare su teatromanzoni.it per prendere i biglietti. Affrettatevi! Affrettatevi! Marina, Marino, Marino, ti voglio al più presto sposare. Marino, Marino, Marino, ti voglio al più presto sposare. Oh mio bel moro, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. No, no, no, no, no, no. Oh mia bel moro, no, non mi lasciare. Ah, Ignazio Marino è tornato. Vi rendete conto? Ma ci sono tante belle notizie oggi sui giornali. Cioè, la storia, per carità, questa è una cosa drammatica perché lì in Libia si sta sparando, ma non pensate che nelle pieghe della storia c'è anche qualche pagina di burla o burletta? Sapete come il nuovo governo di Tripoli si è insediato a Tripoli? Sbarcando in gommone. Ma giuro, non è che me la sono inventata. Poi hanno parzialmente smentito. sono sbarcati in gommone i nuovi ministri del governo a Tripoli. Sono arrivati a Tripoli in gommone il governo. Babbarie. Queste sono babbarie, diciamo sinceramente. Da, babbarie. La prima una B solo, la seconda con due B. Due B, babbarie, babbarie. E poi le pensioni degli italiani. Beh, guardate che l'INPS ha dato i dati. Le invalidità civili, per esempio. Beh, bellissimo, cioè. Le invalidità civili. Al nord sono 37,2 ogni 1000 abitanti. Al centro 50,8, al sud 64,1 per 1000. Ma tutti al sud che stanno male. Mamma mia. Lo so, si vive peggio. C'è meno sole, c'è meno. Vabbè. Per esempio, la Sicilia ha un 12° degli abitanti di tutta l'Italia, ma un 7° di tutti i non vedenti. Stanno tutti in Sicilia, tutti concentrati lì. Per carità, un abbraccio a tutti i non vedenti veri, veri, veri. Quelli ai quali la pensione è fottuta da quelli falsi, falsi. Allora, come vedete, tante belle notizie, ma voglio subito salutare il mega super dir Umberto Brindani, direttore di Oggi. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Vedi con buongiorno. Che allegria oggi siamo, siamo così, eh. Senti, ma sarà uno spettacolo musicale il tuo? Anche avremo anche una band. No, io non canto. Sei già no, invitato, direttore. Ti ho sentito cantare, sei intonato, diciamo, non hai quella voce squillante, però. Ma no, va bene. Sei già invitato 10 aprile, non fare nulla, bene, non fare bene. Nulla. E va bene, insieme a Umberto Brindani, direttore di Oggi, c'è la nostra Aurorina. Oddio, che già sta ascoltando. Aspetta, toglimi la sigla. Cos'è che stai? Aurora Lussana, cosa ascolti oggi? No, stamattina è la Gerusalemme di Verdi. La Gerusalemme di Verdi? Sì. Mamma mia. Come mai? Fa bene la mattina sentire Verdi. Verdi alla mattina. Oh. Oggi facciamo buona giornata a facciamo... direttore e ai tanti amici che incidentalmente invece di sintonizzarsi su Radio Padania erroneamente, fallaciamente stamattina sono su Radio 25. Fallaciamente nel senso di erroneamente o di Oriana Fallaci? Aspetta che tiro giù il Verdi. Aspetta. Ecco, lo tiriamo su noi, guarda, qua in tempo reale. E Brindani è così, Aurora Lussana si sveglia la mattina e... Comunque viva Verdi, sì. Mio compaesano. Sempre viva Verdi. Tra l'altro sai che Umberto, lo so, c'è questa grande notizia che ormai i nostri ascoltatori sanno, e cioè Aurora Lussana è incinta, aspetta una bambina. Sì. Aspetta una bambina. Sì, nonostante il mio DNA, insomma, il mio codice genetico non sia particolarmente straordinario, mi riproduco anch'io. Congratulazioni. Era ora. Non sono andata alla banca del seme, direttore, sono andata in Brianza, ho trovato marito, fatto tutto da sola. Zero. Sì, continua a dire da sola, ma in realtà no, insomma, almeno sì, in due. Ma sai che di sti tempi qui con uteri in affitto, gente che va in California, spende 130.000 euro. È chiaro. Noi poveri proletari, possedendo solo ormai la prole, siamo costretti a congiunzioni carnali, diciamo così. Sì, senti, alla vecchia maniera. Noi abbiamo anche lanciato questo contest su che nome dare alla figlia di Aurora Lussana, perché lo decideranno i nostri ascoltatori, è una straordinaria notizia. Che verrà poi comunicata al momento del parto, quando andremo noi a firmare al posto del padre il nome. Per ora in testa Rosalia, ma senti qui altre proposte, sentite. Il nome della figlia di Aurora, Allegra. La figlia dell'Aurora potrebbe chiamarsi Sharia. Voto per Alessandra. Milan, buongiorno. Il nome giusto per la figlia della Lussana è Alabarda. Io la figlia di Aurora Lussana la chiamerei Alfa. Almeno dopo l'Aurora c'è pure l'Alfa. Poi si fanno magico, chiamo pure Tramonte. Vabbè. Non so se Sharia potrebbe essere gettonata. Ma anche alla Cristiana Barda, Bianca. Alla Barda non è male. Non lo so. Comunque, Umberto Bridani, scegli tu da dove vogliamo iniziare. Ci sono tante cose, dalle cose brutte, cattive, dalle cose negative, dalle cosa ti ha colpito? Vogliamo parlare di trivelle? Di trivelle, mamma mia. Signora. Parliamo di trivelle. Tu andrai a votare? Io non andrò a votare perché io, guarda, mi domando una cosa. Io sono tra quelli che annissimi fa votarono contro il nucleare. Oggi siamo senza il nucleare. Poi nel frattempo abbiamo scoperto che le pale eoliche non vanno bene perché turbano il paesaggio. Sì. I termovalorizzatori non li vuole nessuno. Mi domando, ma alla fine chi intende non prorogare la concessione, perché stiamo parlando di questo, di non prorogare la concessione a quelle alle società che alla fine, che come pensano che possiamo accendere la luce in casa, la televisione, far andare le macchine? Io non lo so, guarda, mi grande sto scoprendo... direttore, grande, ha ragione. Non lo so, mi sembra una cosa talmente assolutata. Sono personalmente amico, ho grande stima di alcuni dei governatori che hanno promosso questo referendum, però francamente io non capisco. E quindi non andrai a votare, perché funziona così. Poi se uno vuol far passare il sì deve andare a votare, se no, oddio, bisognerebbe diciamo in un gioco corretto andare a votare e votare no. Però sì, no. Fra l'altro oggi sul Corriere Michele Ainis ricorda che se un partito politico, un'istituzione invita a non andare a votare, questo è un reato. Ah, tu veramente? Ma no, questo no. Ma anche per il referendum? Perché per il referendum è una cosa diversa. Esatto, è una norma che non è mai stata abrogata. Quindi in questo caso Renzi, Guerini, Serracchiani, eccetera. Arrestateli tutti! Aurora Lussana che ride. Perché, perché va bene. No, legittimamente il direttore pensa agli approvvigionamenti energetici, all'autonomia energetica del nostro paese per evitare poi di essere dipendenti da altri paesi. Però io direi al direttore di stare tranquillo. Tempo. Un anno, due, tanto c'è il califfato, loro c'hanno il petrolio, siamo tutti a posto. Ecco. Ce lo venderanno caro, ce lo faranno pagare, ce lo Io mentre sono qua a rileggere Ratzinger di Ratisbona, tu vai al Teatro Manzoni, sto cercando i biglietti a vedere che cosa costano, che se non costano tanto vengo a vedere. Dai, Maurorina, ma te lo compro, te lo regalo, ma dai, su, non devi anche con una rosa. Che poi dicono troverai, che il Milan mi regala. No, troverai no, anche poi... una rosa sulla tua poltrona. Sì, piena di spine. No. Comunque ce lo daranno loro il petrolio. Magari ce lo consegneranno proprio nelle mani, bollente. Io ho esordito con il nostro amatissimo Verdi a Gerusalemme, perché ieri chi c'era a Gerusalemme? Ecco, chi no, c'è? Vabbè, chi non c'è? Lo sai. Ma mia. Come non lo sai? Dai, è arrivato in parapendio. Ma dai, su, ma dai. C'era lui. Rimettete Crozza, che devo dire ha fatto la battuta più bella del mondo. Dai, adesso Aurora, devi ridere anche tu. Senti questa di Crozza su. Visus abunda, visus tulti. Mamma mia, il nome di una rosa. Senti qua. Giova, scusami, tu come lo chiameresti? Uno che si mette in posa davanti alle macerie lasciate dai kamikaze. Un kamikazzone? Dai, Aurora, un po' fa ridere. Di che hai riso anche tu? Ammettilo, non ti succede nulla. Ma anche a Crozza non succederà mai nulla finché se la prende con Salvini invece che con gli imam e con i califfi. Lunga vita Crozza e la satira italiana che c'ha paura a prendere in giro Maometto e Maomettani. Arriva il califfato. No, era giù a Gerusalemme per imparare. Tant'è che al vertice UE, visto, no? Si stanno occupando del metodo Tel Aviv per la sicurezza negli aeroporti. Sì. È un paese dove le diversità convivono nel rispetto delle regole, della legalità. No, comunque il tema è molto serio. Allora, l'Italia è un colabrodo, in realtà anche oggi si scopre, Repubblica dice uno su quattro vengono arrestati di questi e poi vengono rilasciati. Sì, anche gli sbarchi raddoppiati in un anno, quello per forza. Per forza, se abbiamo la Libia dove il governo deve arrivare con un barcone, capisci? E appena arriva iniziano a sparare, che dobbiamo fare? c'è uno stato fallito. Però Brindani, che dovremmo fare dal punto di vista della sicurezza? Perché qua qualcuno dice bisogna strablindarsi, bisogna imparare dagli israeliani. Ne abbiamo fatto anche noi una trasmissione due giorni fa con Oscar Giannino. No, sicuramente qualche misura dovremmo di riduzione delle nostre libertà, come si dice, dovremmo accettarle, adesso parlando per un attimo seriamente. Però è anche vero che se l'Italia è ancora brodo, il Belgio e la Francia cosa sono? Voglio dire, finora i nostri servizi sembrano avere funzionato o no? Se guardiamo quello che è successo in Belgio, come si sta muovendo, voglio dire, il Belgio fino all'altro ieri vietava le perquisizioni notturne. È vero, sì, per non disturbare. Sta dormendo, dai, non siete scortesi. Improvvisamente si sono accorti che forse sarebbe meglio cambiare questa norma e poter consentire alle forze di polizia di perquisire dalle 5 di sera, dalle 9 di sera alle 5 del mattino. Insomma, vale dire. No, ma che noi abbiamo ceduto un pochino dal punto di vista del abbiamo abbassato la guardia. Cioè, io quando ieri ho letto la notizia, cara Aurora, tu che sei donna, tu che sei una bella donna, abbiamo letto dalla notizia, smettila, della liberale Olanda, dove è arrivata la mail alle dipendenti comunali di non mettersi la gonna, perché questo urterebbe la sensibilità di qualche sporcaccione, magari straniero, che non è abituato a vedere le donne così, così ignude. Allora moriamo in fretta. Ma il direttore diceva cosa succede in Francia, in Belgio, guardate là, vabbè, ormai sono paesi islamici, afroasiatici. La Francia è il paese più laico che esista al mondo. Sì, però uffici, piscine, treni, ecco le nuove regole che limitano le donne per non nutrire la comunità islamica. Così oggi è tutta pagina il Corrierone della Sera. Sì. Quindi, allora, 10 anni fa cosa succedeva in Olanda? Ve lo ricordate il povero Theo van Gogh assassinato per strada da un islamico, da Mohamed Beri? Ecco, lui aveva denunciato la deriva islamista, l'hanno fatto fuori per strada e mi ricorderò sempre che la madre disse: mio figlio è come quei canarini in una gabbia in miniera. Sai che i minatori camminano portando avanti il canarino? Sì. Quando il gas ha invaso il tunnel, il canarino è il primo che muore. E lei disse: state attenti, mio figlio è come l'uccellino che cade stecchito in miniera, perché siamo solo all'inizio, arriva il gas nel tunnel. Tu ci stai dipingendo come se fossimo la Francistan, il Belgistan. Dai, non esageriamo. Bene, Milan, hai voluto la città mochiese. Ma hai voluto chi? L'avrà voluta Brindani, forse? Brindani, non è colpa esageriamo, tua. Ha ragione. È colpa tua. Però ieri... Scusami, ieri, finisco. Sempre 10 anni fa in Belgio cosa hanno fatto? Sono stati messo fuori legge il Vans Belango, un movimento anti-islamista, perché rischiavamo la radicalizzazione di intolleranza. No, in quello sono stati bravi. Sai chi la pensa come te? Te lo faccio sentire dopo il traffico. Ieri ci ha colpito molto. Abbiamo invitato Carlo Nordio, procuratore aggiunto di Venezia. Ma è bravissimo. Ma ragazzi, ma ci ha detto una roba incredibile, detta con una... Però ve la faccio sentire dopo il traffico, state qui. Ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli del traffico, traffico. Pantera millesimato, l'IRP di Infracom Italia, per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta... Milan, la mia ragazza mi ha lasciato. Oggi andrò a dirottare un Frecciarossa. Se hai bisogno di un selfie, chiamami. Non riesco a capire come mai un senatore che si prende 2 anni per corruzione, tipo Verdini, sia ancora al suo posto. Ma è un po' strano. Certo che questo paese è proprio triste. Triste e vecchio. Volevo dare un consiglio a Crozza. Ma quando è che incominci a lavorare tu, pelandrone? Lussana, t'hai alla suda di stupidat, sarà su, il vocabolario parla come ta mangia, come ta cresciuna la bergamasca, a pan, pulenta e cason sei, perché anche a tomo il meroni, quando al parla in parlamento, al fa venire là c'è i genetici, t'hai alla suda di stupidat, ciao Lussana, fa la brava. Ecco, fa la brava, fa la brava. No, ma le Mingalmeroni, le Molteni. Molteni si chiama, infatti. Vabbè, cognome per mamma mia, vabbè, Meroni. È sposata con Molteni, onorevole della Lega. Ma anche lui c'ha questa addizione, no, vabbè, lui c'ha questa inflessione qua brianzola. Sì, il padre, che non potrà scegliere il nome, peraltro, della figlia. Vabbè, è un destino crudele, che lo capiamo, un destino no, lui, crudele. No, lui pensava Bianca Cristiana. Ma tutte e due? No, vabbè, fra 20 anni tanto non ci saranno né bianchi né cristiani, quindi non so, almeno non sarà un nome. Cioè, ci stai dicendo che vorresti chiamare tua figlia? No, beh, Bianca è un bel nome. Bianca è un bel nome, ma Bianca Cristiana, Cristiana Bianca. No, beh, Cristiana cioè, è un bel nome, no? Ma Brindani, ma di qualcosa. Cioè, ma Matteina è stato preso in considerazione. Matteina, non è male. Ma lo so che il direttore ha questa passione per i Matteina e tutte e due. Matteina, vabbè, no, senti. Per la verità c'è da Lisoardi la passione per il tuo Matteo. Come da scoop certificato. Ma l'avrà finito Brindani il libro di su Renzi, Matteo? Ma dice che lo stava leggendo, sì. Immagino di sì, lo spero per lui. Mamma mia. Allora, sentite qua, Carlo Nordio, ieri l'abbiamo invitato con Oscar Giannino e si è lasciato andare a una come dire, dichiarazione pacata, di quelle tranquille. Dovendosi mettere nei panni e nella mente dei terroristi, io credo che abbiano costituito in Italia, come in tutta Europa, una serie di cellule silenti. Credo che queste esplosioni siano la punta di un iceberg, di una polveriera che sta covando. È giusto non fondere l'allarme tra le persone, ma sarebbe anche giusto dire una volta per tutte che siamo in guerra e che non è una guerra, come vorrei essere irriverente, ma insomma, come ha detto il Papa, tirata dai mercanti di armi o addirittura dall'emarginazione. È una guerra religiosa, è una guerra santa. L'altro giorno in Pakistan è una guerra religiosa, una guerra santa, procuratore aggiunto di Venezia. Brindani, che ne dica il Papa? Non lo so. È uno scontro, lo scontro di civiltà, come diceva Hutchinson. Ma ragazzi, cioè, è forte come frase, cioè, il procuratore aggiunto di Venezia che dice bisognerebbe dirlo che è una guerra religiosa, una guerra santa. In realtà qualcuno ha dato secondo me la definizione giusta dell'ISIS, cioè l'ISIS è uno scisma dentro la religione islamica. E lo dico a tutti i leghisti, a tutti quelli che, e anche alla nostra amica Lussana, noi dovremmo cercare di fare un po' di distinzioni, di mantenere un minimo di ragionevolezza sul fatto che non tutti sono uguali, dai. Cioè io, saremmo già morti se tutti noi lo sappiamo che dentro di te, Aurora, tu sei convinta in realtà che non puoi dire che l'Islam è tutto brutto e cattivo. Ma io sono una delle persone più tolleranti che conosco. Non sono per la tolleranza. Ma guarda, no, che l'80% dei musulmani sono laici, non gliene frega niente di andare in moschea a pregare, vogliono fare una vita normale, infatti, se fossero tutti jihadisti non saremmo qui a parlare al telefono, saremmo degli infedeli che avrebbero già accoppato, ovvio, voglio dire. Qui sono qualche decina di migliaia che vanno stroncati dai servizi di intelligence e militarmente. Adesso quello che diceva prima Alessandro sullo sbarco in gommone del governo di Tripoli, lì dobbiamo stare molto attenti, perché se quell'operazione riesce cominceranno le operazioni di terra vere, e quindi forse in Libia li fermeremo. Se fallisce invece è un disastro. A parte che non lo sapremo mai, perché Renzi non ci ha ancora spiegato bene cosa vuol fare in Libia, però in questo momento insomma un po' sbiadito, un po' appannato il nostro illusionista fiorentino, c'è un po' di rogne fra l'India e l'Egitto, quindi probabilmente, siccome non sappiamo cosa succederà in Libia, lo scopriremo probabilmente dagli altri servizi. Ecco. Però insomma, questo lì veramente ci giochiamo una partita clamorosa, perché in Libia è dura. Comunque guarda qua, c'è un altro suggerimento, potresti chiamarla Vanvera, tua figlia. Ci salutano anche Shalom dal deserto del Negev, ci ascolta un ascoltatore, Aurora. Shalom dal deserto del Negev, dal kibbutz Gadot, Shalom, a un passo Shalom. Da Tiberiade. Vedi, si chiama Aaron, vedi? È il deserto, è mistico, è bellissimo. Quando state nel Salvini, deserto, guarda. È Salvini che scrive. Che ha fatto già proseliti. Ma infatti, quando sono stata nel deserto, ho visto i beduini, che hanno una cultura meravigliosa. Sì. E là ti dico, sono una meraviglia, i beduini, una meraviglia. Una meraviglia. Sai che non hanno la parola domani, i beduini? Ah, perché hanno una prospettiva un po' limitata, vivono, diciamo, nel tempo. L'oggi. Bello. Carpe diem. Anche a me latini, le loro culture, il loro paese mi piacciono tutte. È il carpe diem alla beduina, insomma, ecco. Diciamolo così. Allora, voglio farvi chiudere con questa cosa. Dichiarazione sulla fiducia. Voi pagate il canone, Aurora, tu paghi il canone? Se no mi stacca la luce, per forza. Dai, fino ad oggi non è nella luce, non fare la furbetta. Voi che siete anche leghisti a casa e fate questa sorta di rivolta, alcuni leghisti... Guarda che era un'obiezione di coscienza, Era... adesso mi hanno sottratto anche questa libertà. Ho capito, quindi... ma fino a luglio ancora non è cambiato nulla. Cioè, lo paghi... Allora, stai... veramente evadendo la domanda, non il canone. Paghi il canone della Rai oppure mai no? Mai pagato in vita mia il canone. E dillo così. Mai pagato in vita mia. Anche ci pensi perché, tu a dare le generalità alla Guardia di Finanza? Essendo un'imposta di possesso, non una tassa per un servizio, non possedevo TV. Poi mi sono sposato, ho comprato casa. Allora ho comprato la televisione, quindi adesso dovrò pagare il canone. Sì, adesso questo. Come Salvini, sai Brindani, Salvini, dovresti fare un'inchiesta su questo. Salvini dice che non paga il canone della Rai perché non aveva la TV. Ma tu te lo vedi Salvini che non ha la TV in casa? Ma lui la fa la TV. Appunto. Lasciami dire l'ultima enormità italiana che ho scoperto ieri. Cioè se uno dichiarerà di non avere la TV e invece ce l'ha, rischierà di andare in carcere. Ma ti rendi conto? Nello stesso momento in cui depenalizziamo i reati cosiddetti minori, tra i quali, tanto per dirne una, la rapina, non a mano armata. Siamo veramente il paese. Avete voluto la sinistra al governo, carceri libere e canone RAI obbligatorio. Insomma, oggi abbiamo voluto Barconi in Italia, i migrati, io e Brindani, soprattutto la società multiculturale, i jihadisti in casa e la sinistra al governo. Brindani, capisci? E il canone lo paghiamo tutti. Lo paghiamo tutti. Anche Cacciari dice è una follia il canone in bolletta. Senti qui. Lei che ne pensa di questa storia del canone? Mi pare una cosa che non sta né in cielo né in terra. Perché? Questa costruzione a pagare il canone televisivo è una cosa inaudita. Ma il canone va abolito, è evidente. Ma perché l'ha abolito? Però non mi ricordo queste domande di Floris quando era a Ballarò. Queste domande a Rai 3 non le faceva a Cacciare. Il canone va abolito. Se lavori in Rai, parli male del Rai, ti possono cacciare. Sì, credo che il tema canone in Rai non possa essere affrontato. Mettiamola così. Va bene, io vi devo lasciare, vi aspetto tutti il 10 aprile al Manzoni, ovviamente siete già invitati, Umberto Brindani, il cui ultimo numero oggi lo trovate in edicola da ieri, ma anche oggi, battutona, e Aurora Lussana, continua il contest, mandateci al 349-238-6666 via WhatsApp, come chiameremo la figlia di Aurora Lussana, come la chiameremo? Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, siamo qui alle 7:17 minuti, pronti a leggere i giornali. E con voi, se siete qui presenti, datecene una manifestazione concreta al 349-238-6666. Questo è il numero degli SMS, ma potete usare anche WhatsApp, per mandare le vostre sigle, mandare i vostri audio, mandare i vostri insulti, mandare i vostri complimenti, mandare i vostri baci e saluti alla mamma. Allora, noi poi selezioniamo e qualcosina mandiamo in onda. Intanto andiamo a leggere i giornali, vai. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Giovedì 31 marzo e anche marzo se ne va, evviva, domani primo di aprile non fate i pesciozzi, non fate i pescioni, ma ci saranno, la tradizione dura a morire. E allora innanzitutto andiamo con i titoli. Il Sole 24 Ore apre sulla svolta Telecom, via la svolta, Cattaneo è il nuovo CEO, il nuovo amministratore delegato di Telecom Italia al posto di Patuano. Mentre l'attualità internazionale con lo sbarco vero e proprio, sbarco in gommone del governo libico in Libia, sbarca il premier, scontri a Tripoli, è il governo che è stato insediato dopo la mediazione dell'ONU, ma non è riconosciuto da Tobruk e non è soprattutto riconosciuto anche dalle varie fazioni in guerra. E dunque sbarca il premier, scontri a Tripoli, apre così il Corriere della Sera. Per Repubblica invece, Libia, si spara sul governo dell'ONU, Serraj, che è il nuovo premier, sbarca a Tripoli, da un gommone si insedia, fuoco delle milizie, battaglia tra le fazioni. Per La Stampa, Libia, pronti gli addestratori italiani, arriva al Serraj e Tripoli insorge, vattene o è guerra. Come capite, il clima in Libia è tutt'altro che sereno. Anche il giorno, Libia, spari sul governo. Mentre il Fatto Quotidiano continua sulla questione Regeni, nella morsa tra Egitto e Libia, per Renzi è l'ora della verità. Sbarco a Tripoli del governo ONU, subito scontri tra milizie. Domani il premier va da Obama. Il giornale, autolesionismo occidentale, sottomissione in corso. L'Olanda mette al bando le minigonne per non urtare i musulmani. L'India ci umilia sui Marò. E caso Regeni, la nuova balla egiziana ucciso da trafficanti di reperti. Libero invece, tutte le trappole del canone, impazzirai. Questo è il titolo, giocando sulla parola Rai. Titolo del Manifesto, verità in campo, c'è la foto dello striscione a favore della famiglia Regeni e della verità, che è stato esposto al trofeo di Viareggio vinto dalla Juventus giovanile, trofeo giovanile di calcio. Avvenire, il sociale fare impresa, questo è il titolo, è il giro di boa per la delega che permette al no profit di diventare soggetto giuridico, e Avvenire dedica l'apertura a questa notizia. Io però voglio partire da Ignazio Marino. Oh, quante volte vi ricordate, qualche mese fa si diceva, mi diceva basta Ignazio Marino, ma era scomparso, ora è riapparso. Da Sottomarino è ritornato Ignazio Marino, il marziano a Roma, ha presentato alla stampa estera ieri il suo libro Atteso, nel quale dice: dirò tutte le verità, qualcosa anticipato, qualche sassolino o sassolone se l'è tolto. E abbiamo un governo di centrodestra al potere, ha detto del PD, li avessi ascoltati sarei finito in cella di isolamento a questo punto. Marino, insomma, durissimo sul PD e su Renzi. La replica, parole deliranti, per esempio, come racconta Ernesto Menicucci sul Corriere della Sera, Orfini, presidente PD, sprezzante, non recensisco i romanzi fantasy, così risponde. Ma anche il senatore Esposito del Partito Democratico, che per un periodo finale della giunta Marino, ha fatto anche l'assessore all'interno del Comune di Roma, chiamato appunto a cercare di risolvere la situazione, fa due interviste, una Repubblica è molto dura. I romani non credono alle stronzate di Marino, usa anche questa espressione brutale, così il senatore Stefano Esposito. Sta di fatto che tutti, o alcuni, non tutti voi certamente, ve lo chiedete come prima domanda appena vi siete svegliati, ma molti si chiedono: ma che fine farà ora Marino? Si ricandiderà dopo tutta questa vicenda? Beh, il Corriere della Sera fa sapere, con Ernesto Menicucci appunto, che in realtà Marino per il momento ha accettato due incarichi accademici, uno all'Università della California di Los Angeles per 6 mesi, l'altro per un ciclo di lezioni alla Temple University di Philadelphia, la stessa dove andò a settembre, ricordate, per una lecture, quando diede a intendere che era lì in Pennsylvania su invito della Santa Sede. Ci fu anche la smentita del Papa, una cosa che non si è mai vista. Il celebre "non l'ho invitato io", è chiaro, detto dal Papa. E erano i momenti di grande tensione. Poi Marino fu fatto dimettere, fu fatto decadere. L'altro retroscena su che farà Ignazio Marino, alla domanda "si ricandida a Roma", non ha risposto. Il retroscena più interessante su che succederà a Ignazio Marino forse è sulla stampa, anzi senza il forse. Francesco Bei racconta, pagina 13, che Marino sarebbe la prossima pedina di Massimo D'Alema, perché dovrebbe candidarsi come segretario del PD contro Renzi al prossimo congresso del PD. E beh, questa è la retroscena. Il piano di D'Alema per il congresso: candidare il marziano contro Renzi. L'ex premier prova a convincere i bersaniani a mollare Speranza. I bersaniani vorrebbero puntare su Speranza come prossimo segretario del PD contro Renzi, e invece D'Alema punterebbe a Ignazio Marino. C'è del vero in questo retroscena della stampa? Chi lo sa? Continuate pure le vostre colazioni e le vostre faccende senza spaccarvi la testa contro le pareti per risolvere questo quesito. Lasciamo per un attimo la politica. Mi ha colpito questa notizia di cronaca che ha molto risalto su Repubblica, Salvo Palazzolo, a pagina 12. Sono stati fatti dei blitz nel Trapanese e sono state arrestate le persone per mafia. L'accusa è molto grave. Tra i 5 arrestati c'è anche il costruttore anti-racket, o evidentemente, se le accuse verranno provate, il sedicente costruttore anti-racket. Lui, come racconta Salvo Palazzolo, che ai convegni diceva "bisogna avere il coraggio di denunciare la mafia", è l'imprenditore del calcestruzzo Vincenzo Artale, che si vantava di essere diventato un simbolo nella terra del superlatitante Matteo Messina Denaro. "Io il coraggio l'ho avuto", ripeteva. "Nel 2006 ho denunciato chi voleva farmi pagare il pizzo, e per questo", racconta Repubblica, "il Ministero dell'Interno l'aveva pure risarcito con 250.000 euro. Intanto però, secondo l'accusa, i nuovi boss di Castellammare del Golfo, quelli che contavano per davvero, avevano iniziato a sponsorizzare il calcestruzzo di Artale, imponendolo alle ditte che facevano lavori pubblici e privati nella provincia di Trapani. Insomma, come racconta il procuratore aggiunto Teresa Principato, è una storia emblematica. Ancora una volta le intercettazioni svelano che l'antimafia di maniera può essere uno schermo perfetto per mascherare scalate imprenditoriali all'ombra della mafia". È questa storia a cui Repubblica dedica 2 pagine. E tra l'altro, secondo l'accusa, questo cemento sarebbe stato utilizzato nel viadotto Cavaseno lungo l'autostrada Palermo-Mazzara, viadotto poi crollato. Perché poi c'è questa questione che va a incidere direttamente su quello che è la vita di tutti noi, oltre all'accusa di mafia, che poi utilizzano il calcestruzzo avariato o di scarsa qualità, e poi uno non si spiega come mai, o se lo spiega benissimo, le strade cadono o si crepano o si bucano e i viadotti affondano. Voglio rimanere in Sicilia perché il racconto di quelli che sono i dati dell'INPS, i dati forniti ieri e che potete leggere tutti in dettaglio sul Sole 24 Ore nell'articolo di Davide Colombo, riguarda le pensioni e alcuni dati che sulla Sicilia hanno abbastanza incuriosito. Comunque, partite da tutti i dati di Davide Colombo sul Sole 24 Ore. Ieri l'INPS ha fatto sapere quante sono le pensioni di anzianità nel 2015, sono 219.539 che vengono pagate, quante sono le pensioni di vecchiaia, sono 90.849, sono in calo dell'1,7% rispetto all'anno precedente, Ma insomma, tutti i dati di quanti sono le spese per le pensioni. Ma ci sono alcuni dati che mi hanno incuriosito. Le pensioni di invalidità. Ah, le pensioni di invalidità. Sono soprattutto al sud. Sentite qui il dato. Enrico Marro lo scrive per esempio a pagina 2 del Corriere della Sera. Le pensioni di invalidità civile, 37,2 ogni 1000 residenti al nord, 37,2 al nord. Al centro si scende a 5, si sale a 50,8 per 1000. Al sud 64,1 per 1000 abitanti, quasi il doppio rispetto al nord. Per esempio, in Sicilia, racconta Sergio Rizzo nell'articolo Accompagnatori, ciechi, falsi invalidi, quei 15 miliardi di welfare clientelare, in Sicilia, e qui ecco arriviamo alla Sicilia, c'è un 1/12 della popolazione italiana, ma guarda che cosa strana, 1/7 dei non vedenti sono tutti lì, concentrati. E questa cosa mi fa, non è l'articolo che mi fa più zare perché arriva tra poco, ma questa cosa mi fa zare di brutto perché penso a tutti i veri non vedenti, a tutti i nostri amici ciechi che ci ascoltano, che ci seguono con passione, che hanno diritto alla pensione di invalidità e che vengono fottuti, potrebbero averla anche meritoriamente un po' più alta, vengono fottuti, lo dico per la terza volta, da questi che si fottono, e siamo a quattro invece, i soldi in maniera truffaldina. Non vale solo per i non vedenti, vale anche per i sordomuti, tutti quelli che hanno una pensione di invalidità e che truffano lo Stato. E Sergio Rizzo racconta lo scenario, gli abusi, la politica, insomma, anche Carlo Cottarelli, ve lo ricordate, quello della Spending Review, e poi mandato via, comunque insomma non compiuta, aveva detto che c'era una distribuzione territoriale delle pensioni di invalidità un pochino squilibrata, al punto che gli assegni pagati in Calabria sono in proporzione agli abitanti almeno il doppio di quelli erogati in Emilia-Romagna. Cottarelli aveva suggerito, forse ci sono degli abusi, forse, ogni tanto li beccano anche i finti invalidi, i finti ciechi, i finti zoppi, i finti sordomuti, che in realtà non hanno nulla di tutto questo e che però si sono rubati un bel po' di soldi pubblici nel frattempo. Beh, vabbè, oggi Sergio Rizzo riepiloga, a partire da questi dati dell'INPS, tutte queste truffe. Ma eccolo qui, l'articolo che mi fa più sale della giornata. È un articolo corredato da una foto che io cerco di andare a descrivere. L'articolo è di Daniela Mastro Mattei, lo trovate su Libero a pagina 18. La ladra rom esce subito e ci prende in giro. È la storia di una ladra che è entrata in una casa a Macerata, nelle Marche, insieme a un tredicenne. Condominio si è introdotta, ha messo la casa a soqquadro, cose che capitano, ha racimolato alla fine 200 euro tra denaro e oggetti preziosi, quindi è una miseria, però ha distrutto una casa, insomma, tutto quello. È stata arrestata, ma è stata subito rilasciata, perché il giudice dice è mamma, e siamo contenti, è mamma, e quindi, essendo mamma, non può stare in carcere. E c'è questa foto. Questa foto io l'ho messa sul mio profilo Twitter Alino Milan, andate a vederla, ma la trovate. La ladra rom, mamma, che è accompagnata da due carabinieri all'uscita con un bel sorriso così e il segno della vittoria al fotografo. Sapete il segno della vittoria? Quello che in America invece vuol dire un'altra cosa, se lo fate, le due dita, l'indice, il medio, è a V. Esulta e ride dell'Italia. Ride della nostra giustizia, ride di tutti noi, ride di tutti voi, ride pensando al prossimo furto. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il giornalista che mi fa più stare della giornata. Ciao da Anastasia. Anastasia, ho capito Anastasia, ma che tenera, amore mio, evviva Anastasia, un abbraccio, un abbraccino ovviamente, se no ti fai male se ti stritoliamo qua e invece facciamo con delicatezza. Grazie per questa straordinaria sigla, però non ti... scherzare Anastasia, anzi sempre col sorriso sulle labbra, questo è lo scopo. Allora dobbiamo parlare di Libia. Che dite, è una buona notizia il fatto che si sia insediato il governo voluto dall'ONU e quindi dobbiamo guardare al bicchiere mezzo pieno, oppure il fatto che appena si è insediato, arrivando tra l'altro, non sorridete, insomma io ieri l'ho fatto, mi sono permesso come battuta perché secondo me si può sorridere su tutto, anche sulle cose serie, arrivando in gommone a Tripoli, cioè si sono insediati in gommone arrivando quelli del governo perché via terra e via aerea non riuscivano a Tripoli. Quindi è un bicchiere mezzo pieno o un bicchiere mezzo vuoto, perché appena è arrivato hanno iniziato a sparare, ci sono le fazioni che non lo riconoscono, che dicono vattene via, ti dobbiamo arrestare, vattene via o sarà guerra. Cioè bisognerà vedere nelle prossime 48 ore, nei prossimi sviluppi della giornata, delle prossime giornate. Sta di fatto che Tripoli, le milizie contro l'arrivo del premier, il leader scelto dall'ONU sbarca nella capitale, barricate in strada, o se ne va o lo cacciamo con le armi, questo è il titolo dell'articolo di Francesco Battistini a pagina 5. Lo aspettavano dal cielo come una benedizione o una maledizione, è arrivato dal mare come un condottiero o come un naufrago, vedete che si può ironizzare su questo, in nave. Fayez Sarraj ci ha messo 3 mesi e mezzo a ricevere la nomina dalla comunità internazionale, a formare 2 volte la lista dei ministri e a raccogliere il coraggio che serviva per arrivare a Tripoli in un molo. Proclamo da qui l'entrata in carica del governo d'accordo nazionale. Ma poco fuori città, alla base navale a Buseta, l'unica sede praticabile dopo che il Consiglio di Presidenza a sostegno del nuovo governo aveva dovuto scartare nell'ordine l'aeroporto di Mitiga, il complesso turistica di Jamzur che usava già l'ONU e un altro albergo, ecco, da questa base navale ha dichiarato questo e la mossa è o decisiva o fallimentare e si vedrà presto. Si vedrà presto. Beh, secondo Paolo Scaroni, oggi vicepresidente della Banca Rothschild e stato amministratore delegato di Enel Edeni, intervistato da Paolo Valentino, gran conoscitore della Libia, intervistato dal Corriere della Sera, dice Paolo Scaroni: la Libia unita è un sogno impossibile. Parte a dire Scaroni: è casa nostra la Libia, credo che avere uno Stato fallito a 80 km dalle coste sia un rischio enorme, in primo luogo per l'immigrazione, incontrollata e incontrollabile, e con il blocco delle frontiere da parte di molti paesi c'è la concreta prospettiva che l'Italia diventi una grande Calais in Francia. Quelli che passano dalla Libia non sono siriani, ma povera gente dai paesi dell'Africa che cerca un futuro migliore. E già nelle prossime settimane potremo vedere arrivare sulle nostre coste 2-3 mila disperati al giorno. E allora come dovremmo agire? È da mesi, se non anni, che ci viene ripetuto il refrain: possiamo intervenire in Libia solo se un governo legittimo ce lo chiede. Il punto è che questo governo solido non riusciamo a vederlo. Si succedono aborti di governi, delegittimati nello spazio di poche ore, in conflitto tra loro, e la verità è che se guardiamo i libri di storia si scopre che Cirenaica, Tripolitania e Fezzan sono da poco un paese. Fummo noi italiani nel 1934 a inventarci la Libia. Ora, se invece di cercare di comporre questo puzzle difficilissimo ci semplificassimo la vita e cercassimo di favorire la nascita di un governo in Tripolitania che poi facesse appello a forze straniere che lo aiutino a stare in piedi, potremmo risolvere parte dei nostri problemi. Insomma, dice Scaroni, puntiamo a un governo non unitario in Libia, che è un sogno, è una chimera più che un sogno. E però quella cifra che ha detto degli sbarchi è una cifra concreta, perché sentite anche qui Repubblica, Vladimiro Polchi: gli sbarchi in Italia sono già raddoppiati in un anno. Ieri sono stati salvati 2.800 migranti e le stime del Viminale, il Viminale è il Ministero dell'Interno italiano, dice che potremmo arrivare a 270.000 immigrati in arrivo quest'anno. L'onda rischia di travolgerci. La rete dei centri d'accoglienza non reggerà. Servono caserme e tendopoli. Ci vuole un piano anticrisi nazionale. Questo al Viminale dicono, e gira un numero che fa paura: 270.000. Tanti potrebbero essere i migranti che approderanno sulle coste italiane nel 2016. Già i primi mesi dell'anno segnano un record, 80% di arrivi in più rispetto all'anno scorso. E non solo, c'è un'inversione di tendenza: dal 20 marzo gli sbarchi in Italia hanno aumentato gli sbarchi in Grecia. Questo è quello che c'è all'orizzonte. Il rischio del fallimento di questo insediamento del governo libico è concreto. Invece, se andiamo sul profilo del rischio internazionale, del terrorismo internazionale, beh, che dire, per rimanere su Repubblica, quello che raccontano Giuliano Foschini e Fabio Tonacci a pagina 6. Jihadisti d'Italia è caos. Indagini superficiali, confusione nelle procure. E che succede? Succede che uno su quattro accusato di terrorismo internazionale viene rilasciato in fretta. Hanno scarcerato perfino Hitler. Questo è il paradosso con cui inizia l'articolo. Così, infatti, gli amici chiamavano il curdo iracheno Ibrahim Jamal. Hitler lo chiamavano. Pericoloso jihadista per il ROS, i carabinieri. Vittima di un incredibile errore giudiziario, secondo il pubblico ministero di Trento. Dopo che a novembre nome e soprannome di Jamal avevano fatto il giro del mondo, i magistrati hanno annullato l'arresto di Hitler e di altri 7 su 17 catturati nell'operazione che aveva sgominato a Bolzano una pericolosa associazione terroristica, anzi a Merano. Caso questo che racconta il cortocircuito del sistema giudiziario italiano in materia di terrorismo. Il 20% degli arrestati dello scorso anno è già stato liberato. Per carità, mancheranno le prove. Prove che non sono vere, però vengono presentate, sgominata una banda di terroristi internazionali, il 20% di quelli che vengono arrestati poi vengono rilasciati. E poi c'è la questione anche, la questione Giulio Regeni è una questione che continua dopo la conferenza stampa italiana. Quello che mi ha colpito, a parte, troverete sul Corriere della Sera l'articolo di Giusy Fasano, un ritratto di questa mamma coraggiosa, mamma Paola, che si è presentata insieme al marito a parlare del figlio Giulio per cercare giustamente che venga fatta chiarezza sull'uccisione del figlio in Egitto. Mi ha colpito però quello che scrive Giovanni Bianconi a pagina 10 del Corriere della Sera, e cioè quello che c'è finora tra Egitto e Italia. Pensate un po', è una collaborazione dovuta alle rispettive buone volontà. Io l'ho letto e ho detto, che vuol dire rispettive buone volontà? Eh sì, è così, perché tra Italia e Egitto, scrive Bianconi, non esiste un trattato di cooperazione giudiziaria, non è mai stato fatto, non è mai stato firmato. E quindi il poco che è accaduto finora nei rapporti tra magistrati sul caso Regeni è solo frutto delle rispettive buone volontà. Così come quello che potrà accadere in futuro. Spirito di collaborazione, nient'altro. Questa sconsolata ma realistica premessa è necessaria per farsi un'idea di cosa si può legittimamente attendere dalla doppia inchiesta egiziana e italiana sul sequestro, la tortura, l'omicidio di Giulio Regeni. Due indagini che in realtà sono una sola, in cui restano titolari gli inquirenti del Cairo. La Procura di Roma può offrire solo un aiuto. Un aiuto, se viene richiesto, potrà solo giudicare i risultati, nello spirito di collaborazione, nient'altro. Cioè, volessero in Egitto da oggi dire, sentite che c'è, per noi l'inchiesta è chiusa, noi non potremmo fare niente dal punto di vista dell'inchiesta. Certo, potremmo fare qualcosa dal punto di vista delle pressioni diplomatiche, però è incredibile tutto ciò, ma è vero. Tra l'altro, a proposito della lotta al terrorismo internazionale, tutti i giornali titolano della decisione del presidente francese Hollande, che fa marcia indietro e dice la Francia non toglierà la nazionalità ai terroristi. Non c'è consenso in aula sulla riforma costituzionale e quindi è una sorta, come racconta la stampa, anche di imbarazzante ammissione di impotenza, perché dopo 4 mesi di estenuanti polemiche il presidente Hollande si è trovato costretto a rinunciare alla revoca della nazionalità che dopo gli attentati del 13 novembre venne annunciata come un provvedimento anche molto simbolico della lotta al terrorismo. In realtà non ha mai convinto nessuno e quindi viene ritirata e non ci sarà. Oh, caro Mauro Meazza, mala tempora currunt! Tu hai una bella pensione di invalidità? Buongiorno, no, però se tu ne hai e vuoi farmene dono, io volentieri l'accetto. Ma sì, caro. Dai, io la do a te e tu la dai a un altro. Ma questo esordio addirittura in latino mi sorprende positivamente. Positivamente, perché... Sapevo, per te ho studiato 5 minuti fa. Ah, molto bene, me ne compiaccio. Allora, guarda, sappi che anche a Bruxelles stanno studiando, sì. E mi è venuto così, non ho fatto apposta, chiedo scusa. Stanno studiando la nostra idea di rimborso per i risparmiatori coinvolti dalla risoluzione delle quattro banche, perché lo apprendi leggendo avidamente, come devi fare, le pagine di finanza sul Sole 24 Ore di oggi, perché appunto noi vorremmo aumentare, questa è l'intenzione del governo, aumentare il fondo, la dotazione per i rimborsi, ma Bruxelles, come sai, non ama che si usino soldi pubblici per queste circostanze, mm-hmm. Quindi c'è una trattativa, si tratta con Bruxelles sui rimborsi, sarebbero anche scaduti i termini per varare i decreti, ma adesso non stiamo a guardare il capello, come dicono a Roma, e quindi invece è in arrivo due buone notizie, guarda, voglio esagerare oggi, eppure tre. Riduzione delle bollette di luce e gas, leggerai su Impresa e Territorio, le pagine di Impresa oggi sul Sole. Poi è in arrivo il decreto per detassare i premi di risultato. Ora, so che a te sembrerà qui radiofisco, ma invece guarda che era una misura molto attesa, la sua parte attuativa, ne riferiamo puntualmente in norme e tributi che tu leggerai da par tuo. Religiosamente? Bravissimo, volevo vedere se eri attento. E poi, fa attenzione, perché ieri è anche arrivato in via libera al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che detassa, anche lì uno sconto fiscale, i laureati di ritorno in Italia, cioè coloro che hanno magari lavorato per un po' all'estero, in modo autonomo o dipendente, non importa, e volessero tornare indietro. Noi li accogliamo a braccia aperte, insomma, quantomeno con uno sconto fiscale, ecco, adesso... non vorrei sbilanciarmi. Ricordati. Sì. Che devi verificare i dati del 7.30. Devi verificare i dati del 7.30 precompilato. Se non sai bene come comportarti, leggi oggi Giovanni Parente su Norme e Tributi, che ti fa un riepilogo dei dati più critici, delle voci più critiche. Ricordati sempre che devi verificare. Poi se ti accorgessi di avere così una dotazione superiore ai 2 eurini che millanti sempre, io ti segnalo, te la butto lì, c'è un sito, ne riferiamo oggi su Casa 24, sai che oggi è giovedì, quindi ci sono le pagine dedicate al mercato immobiliare Casa 24, c'è un sito per acquistare, che so, degli immobili pubblici, una bella villa comunale in Sicilia, una villa signorile a Firenze, eccetera, se vuoi tu metti i tuoi 2 eurini, io vedo che cosa posso tirar su e magari ci potremmo così comprare una villetta insieme, abbastanza grande, una villona, sì, ho visto che ci sono delle dotazioni, ma trovi tutto su Casa 24. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud, vi presenta... Alessandro Mila, il conduttore che sembra a che fare con la carta, e sai che ci deve fare con la carta? Ci si deve pulire il... Va bene. Allora, che dire, cari ascoltatori? Beh, giusto per rimanere all'estero, mi ha colpito molto quello che ha detto Trump, il candidato probabilmente repubblicano alla corsa alla Casa Bianca. Ha parlato di aborto in un'intervista televisiva e ha detto questo: udite udite, care donne, ero a favore della libertà di scelta per la donna, ma ho cambiato posizione nel corso dell'ultimo anno. E cambiare idea ci sta. Però ha aggiunto: ora sono contro l'interruzione della gravidanza, con 3 sole eccezioni. Ammetto l'aborto in caso di stupro, incesto o se la vita della madre è in pericolo. Negli altri casi, se l'aborto diventasse illegale, questa è la frase che fa discutere, dovrebbe esserci qualche forma di punizione per le donne che non portano a termine la gravidanza. Ma non ho ancora chiaro quale tipo di punizione. Non so, speriamo non pene corporali, abbia in mente Trump. Comunque, Trump in rotta con le donne, punirei chi chi abortisce. Questo è il titolo che trovate per esempio a pagina 15 del Corriere della Sera come titolo. Vabbè, torniamo a questioni italiane. Le questioni italiane riguardano le tasse. Oggi anche Libero si concentra sul canone, prima o poi lo tratteremo anche noi, perché il nostro Oscar Giannino è qui che freme, frigola, frigge, bolle in attesa della questione del canone della RAI. Sentite questa storia invece che riguarda le tasse, che è raccontata dal Giornale, da Serenella Bettin a pagina 7. Beh, questa non è male. Il TAR condanna lo Stato italiano a comunicare in lingua cinese. Succede che c'è una donna cinese in Italia che non ha presentato la dichiarazione dei redditi e tra l'altro non ha ottenuto neanche il rinnovo del permesso di soggiorno, quindi dovrebbe essere espulsa. Ma i giudici la salvano e dicono che i documenti per lei erano incomprensibili. Bisognava fare dei documenti in cinese. Eccoci qui. Il Giornale: provateci voi a non fare la dichiarazione dei redditi, a entrare in un ufficio e dire di non avere capito bene che documenti portare e passarla liscia. Ma gli stranieri evidentemente possono. Ha del folle quello che è accaduto l'altro giorno in Veneto per la gioia di una cinese in Italia da 5 anni. La questura le nega il rinnovo del permesso di soggiorno. Lei fa ricorso, il TAR del Veneto annulla il diniego, il tribunale infatti le dà ragione, in quanto la richiesta della questura di allegare i documenti utili al rinnovo del permesso era in italiano e non le era stata tradotta in lingua cinese. Così lei, non capendoci nulla, non ha presentato la dichiarazione dei redditi, non ha presentato i documenti necessari e lo Stato italiano viene condannato anche a pagare le spese processuali della vicenda. Va bene, questo succede. Vi voglio segnalare che ieri era la giornata, come Radio 24 ha testimoniato, la giornata per le persone con disabilità intellettiva. 2 milioni di cittadini. C'è stata anche la cerimonia al Quirinale col presidente Sergio Mattarella. 2 milioni di cittadini invisibili, così sono purtroppo tante volte, una cosa che non possiamo accettare, ha detto il capo dello Stato. Non possiamo cioè escludere dai nostri doveri l'aiuto ai cittadini, e lo ha sillabato, cittadini, non pazienti, ma cittadini come tutti gli altri, colpiti da disabilità intellettiva che attendono la completa inclusione sociale, e le loro famiglie invece sono nell'incubo del cosa verrà dopo di noi. Al di là degli articoli della celebrazione, vi segnalo l'articolo di Gian Antonio Stella, pagina 22 del Corriere della Sera, che anticipa un servizio delle Iene che andrà in onda questa sera. Indovinate un po', cari cittadini, qual è in Italia l'istituzione che non ha mai assunto un portatore di handicap. Indovinate un po'. Caro Peter Bescapè, indovina, proprio nel momento in cui ci sono le celebrazioni, c'è la giornata, ci sono le leggi, eccetera, il Parlamento. Ma come? Ma lì dove si fanno le leggi? E stasera sarà tutto certificato dalle Iene. In un servizio, scrive Stella, questa sera in cui si va dai deputati e dice: lei dice che è una legge giusta, ma sa che la prima a non applicare questa legge è la Camera? Ma come? Laura Ravetto non è applicata, è gravissimo, non lo sapevo. Civati, ora facciamo un macello, è una follia. Stefano Fassina, è inaccettabile, dobbiamo porre rimedio. Daniela Santanchè, non lo sapevo. Andrea Romano, effettivamente non ho mai visto dipendenti affetti da disabilità. Ecco, appunto, la Camera che ha approvato la legge. E adesso tutti al Quirinale a riempirsi di importanti parole... Dove non viene applicata questa legge, là dove la legge viene fatta, in Parlamento. Evviva, dai, siamo alla carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vince una intera pagina di Vittorio Zucconi che parla, a partire da una foto, la foto del premier canadese che ho messo anche su Twitter, nella posizione del pavone. Yoga, per chi è abile in yoga sapete cosa significa yoga, diritti, accoglienza, una pagina sul premier canadese e il suo amore per lo yoga. Ma chi se ne frega!